Senti, adesso ti facciamo. Siamo in collegamento col Ministero della Giustizia di Santa Lucia. Parla tu, devi chiedere al ministro se c'è il signor scusa, no, Thomas. Che devo chiedere? Io devo chiedere. Sì, tu in inglese. Ma cosa gli chiedo, scusa? Devi chiedere, stiamo cercando, qui è il Sole 24 Ore New York, sto cercando il ministro della giustizia dell'isola di Santa Lucia che si chiama, come si chiama? Rudolf Francis. Rudolf Francis, e perché lo stiamo cercando? Lo stiamo cercando per capire se il documento pubblicato in Italia dal giornale tramite Dagospia è veramente il documento vero, quello che attesta la proprietà. Ma tu tanto chiedi al ministro. Ok. Un attimo, un attimo adesso rispondo alla segretaria, un attimo. Hello. Hello. Yes, good afternoon. I'm trying to reach the minister, Rudolf Francis, please. The minister is out of office for the week. For the whole week? Yeah. Quando torna, chiedi Mario? Okay, when is he going to come back exactly? Hopefully next week. Settimana prossima. Is there anyone else we can talk to? This is in relation with a document that has been published in Italy, apparently of some kind of transaction that happened in Santa Lucia for an apartment that was bought and it has political implication. Who can we talk to now? Well, actually, all the lawyers are at lunch right now, the councils. So there's not anyone here that you can speak to about it. Vabbè, dobbiamo aspettare la settimana prossima, Mare. Ok, very good, thank you so much. Thank you. Grazie. Lei dice che il counselor, cioè l'avvocato, perché poi il ministro magari non ha la minima idea se c'è la lettera o non c'è la lettera. Cioè forse vabbè, l'ha scritta lui, l'ha firmata lui, comunque vabbè. Il counselor, ecco, allora il counselor, quello c'ha le carte anche lui, sì, no? Allora? Il counselor? Allora dice che il counselor adesso è fuori a colazione. Però ritorna forse fra una mezz'ora o un tre quarti d'ora. Tu però sei alle Nazioni Unite tra mezz'ora e tre quarti d'ora. Io sì, abbiamo Obama che adesso poi parla anche alla Clinton Initiative.